falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. La storia di oggi ci è stata consigliata da un nostro ascoltatore che ha avuto l'arguzia di segnalarci un personaggio che ci era sfuggito. Il nome dell'ascoltatore è Domenico Melia. Ciao Domenico. Ciao Enrico. Ci chiami? Ciao. Da? Chiamo da Sassari. Quanti anni hai, Domenico? Io ho 57 anni. Ah, perfetto, grande età, anch'io ne ho 57. È un'età importante. È un'età molto importante. E cosa ti attira di Wernher von Braun? Per me è stato, ha segnato un'epoca. Io quella notte ce l'ho sempre nei miei ricordi. Il fatto di conquistare la Luna è qualcosa che rimane nella storia dell'umanità. Come diceva Armstrong, un piccolo passo per l'uomo è un grandissimo passo per l'umanità. Era il sogno di sempre. Ha fatto un colpo d'ala enorme, partendo dalla Germania tedesca, dei nazisti, quando realizzava quelle armi terribili di distruzione, e poi invece ha rivisto tutta la sua esistenza realizzando qualche cosa di estremamente positivo. Grazie Domenico. Grazie a te Enrico, sei un grande. Caro Domenico, io ti ringrazio due volte. La prima per i complimenti che fanno sempre piacere, e la seconda per averci fatto una richiesta che voglio soddisfare, perché Wernher von Braun, come hai giustamente detto tu, è stato veramente una figura epica nella storia dell'umanità, perché è colui al quale va dato il merito, poi chiaramente queste cose non si fanno da soli, però è colui al quale va dato il merito dell'esplorazione nello spazio. Soprattutto è quello che ha fatto vincere agli Stati Uniti il primato del primo uomo sulla Luna, che l'America si contendeva con il filo del rasoio con l'Unione Sovietica. Quindi sono felicissimo di raccontare la sua storia, che è una storia controversa, come vedremo, perché le vicende della vita di Wernher von Braun hanno diviso gli animi. C'è chi lo ha visto come un eroe, come l'uomo con un sogno che va oltre i limiti dell'umanità e quindi che conquista lo spazio, ma anche chi lo considera un criminale di guerra, comunque colui che ha inventato qualcosa che ha fatto sì che altri diventassero criminali di guerra. Vediamo di conoscere meglio la sua storia, cominciando da un libro che lui stesso definisce fondamentale per la sua vita e per le sue scelte. Ero nei guai perché quel libro era pieno di formule e a quel tempo io non eccellevo né in fisica né in matematica. Per cui andai dal mio professore e gli chiesi come potevo fare per capire quel libro, perché io volevo veramente rendermi conto se era possibile costruire un razzo. Il libro in questione è una tesi di laurea rifiutata perché considerata troppo avveniristica, Il missile nello spazio interplanetario. È scritta dal pioniere della missilistica e dell'aeronautica, Hermann Oberth, nel 1922. L'autore lo pubblicò a sue stesse spese. Wernher von Braun legge questo trattato quando è ancora soltanto un ragazzino di ottima famiglia, è un barone che nasce il 23 marzo del 1912 a Wirsitz, in quella che allora era la Prussia e che oggi è la Polonia. Suo padre è il barone Magnus von Braun, appartiene alla antica aristocrazia tedesca, conservatore, è stato ministro dell'agricoltura durante la Repubblica di Weimar. Anche la madre, che si chiama Emmy von Quistorp, è una nobile ed è imparentata con i reali d'Europa. Quindi von Braun si trasferiscono a Berlino, dove Wernher fin da piccolo ha una passione sfrenata per l'astronomia e lo spazio, fa spesso esperimenti con i fuochi d'artificio. To leave the capsule and feel dead. È all'Università Tecnica di Berlino che Werner inizia a frequentare nel 1930 l'autore di quel famoso libro che gli aveva aperto la mente, e il suo professore di fisica, Hermann Oberth. E così Werner diventa suo assistente negli esperimenti sui razzi a motore con combustibile liquido. Mentre von Braun sta studiando per il dottorato di fisica, il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori, il partito nazista, sale al potere. Immediatamente lo sviluppo e la ricerca della missilistica diventano monopolio dei militari, come racconta il professor Marchis, ordinario di storia della tecnica presso il Politecnico di Torino. Nel 1934 Hitler sale al potere e nell'anno seguente finalmente von Braun consegue il suo dottorato di ricerca appunto in tecniche aerospaziali. I campi di volo intorno a Berlino, anche se controllati ormai completamente dall'esercito, non sono più sufficienti e l'esercito tedesco pensa di trasferire in un luogo più sicuro, ma anche più adatto alle nuove dimensioni di questi ordigni, di queste armi, perché ormai di armi si tratta, viene spostato sul Mar Baltico in una penisola, in un'isola penisola piatta con altezza massima di 2 metri sul livello del mare, Peenemünde. Peenemünde, base della nascente industria missilistica tedesca, viene scelta proprio da Werner von Braun, come racconta lui stesso. Era ovvio che dovessimo trovare un posto vicino all'acqua, perché dovevamo lanciare razzi a lunga gittata, e quindi era logico che si doveva scegliere un posto dal quale, in relativa sicurezza, si potessero lanciare questi razzi e anche controllarli lungo la costa. Mia madre mi disse: perché non guardate a Peenemünde, che era dove mio padre andava a caccia di anatre, un'area ampia e disabitata, molto bella, e fu amore a prima vista. Love at first sight. Allora, Peenemünde nel nord-est della Germania, sul Mar Baltico, vicino per intenderci a Estonia, Lettonia e Lituania, e diventa la sede storica della missilistica tedesca, dove in collaborazione con la Luftwaffe vengono sviluppati propulsori a combustibile liquido sia per i caccia sia per gli aerei a reazione, nonché missili balistici e missili antiaerei. Werner von Braun ha solo 25 anni, ma è un giovane geniale. Viene subito nominato direttore tecnico. Nel novembre del 37, a causa di forti pressioni, entra nel partito nazista e nel maggio del 40 diventa ufficiale delle SS. Stiamo raccontando la storia di Werner von Braun, che a soli 25 anni diventa direttore tecnico nella nascente industria missilistica tedesca che fa base a Peenemünde. In breve tempo la fabbrica diventa uno dei più moderni centri sperimentali del mondo. 30.000 persone impiegate, e il Peenemünde si trasforma in una vera e propria cittadina autosufficiente che ha al suo interno tutto quello che può servire alla produzione delle armi segrete germaniche. Ha una galleria del vento, una centrale elettrica, una fabbrica di ossigeno liquido e perfino una sua ferrovia. I mezzi economici per realizzare tutto questo arrivano direttamente dall'aeronautica e dall'esercito, che investono una quantità impressionante di fondi nella ricerca missilistica, e siamo già in pre-guerra. Ce lo racconta lo stesso von Braun. L'Air Force pensava in termini di milioni, quando noi pensavamo in termini di migliaia di marchi. Il maggiore von Richthofen, peraltro nipote del barone rosso, eroe della prima guerra mondiale, che era capo dello sviluppo dell'aircraft e ministro dell'aeronautica, ci disse: vi do 5 milioni di marchi. A quel punto anche l'esercito volle entrare nel progetto dei missili e dissero: l'aeronautica vi dà 5 milioni e noi ve ne diamo 6. Improvvisamente mi ritrovai con 11 milioni di marchi da investire. Fu veramente un bel colpo. We hit the big time. Beh, la cifra è decisamente imponente, ma va anche detto che la missilistica è molto costosa, perché a quel tempo è una scienza sperimentale. I razzi che si schiantano al suolo prima ancora di decollare sono la maggioranza, e per il momento si può dire che von Braun e i suoi uomini si occupino più di esperimenti che di reale produzione di armi. Poi accade un fatto però che determina un netto cambiamento di rotta. È il Führer in persona a interessarsi all'industria missilistica e assiste a un esperimento di von Braun. Di solito le persone erano sempre molto impressionate dal rumore, ma lui non disse una sola parola. Gli mostrammo un modello di A3 e lui ascoltò in silenzio tutta la mia spiegazione e alla fine se ne andò scuotendo la testa. Io ebbi la netta sensazione che lui avesse pensato che quello che aveva visto non avrebbe mai funzionato o che fosse una follia. Sarà un caso. Forse la visita del Führer, forse la sperimentazione di von Braun è giunta alla maturazione. Sta di fatto che da quel momento i razzi prodotti a Peenemünde iniziano a funzionare. Nel novembre del 1942 Adolf Hitler approva la produzione dei missili A4 come arma di rappresaglia. Dopo 22 mesi di lavoro febbrile viene messo a punto il primo A4, che viene ribattezzato da Goebbels V2, cioè Fergeltungswaffe, arma di rappresaglia, di vendetta. La 4 è un'arma devastante, un missile alto come un palazzo di 5 piani, capace di volare a oltre 5.600 km all'ora, di arrivare oltre i confini dell'atmosfera, trasportare centinaia di chilogrammi di esplosivo a 800 km di distanza. Werner von Braun e i suoi tecnici comprendono immediatamente che questi missili vengono sviluppati con uno scopo bellico ben preciso: bombardare Londra, come conferma Vittorio Marchis, ordinario di storia della tecnica presso il Politecnico di Torino. Inizialmente, appunto, dopo i primi esperimenti, come sempre i primi esperimenti non sono coronati da successo, ma una massiccia attenzione, grandissimi investimenti in questo settore portano alla fine ad ottenere delle grandi bombe volanti, delle bombe che riescono a essere lanciate sia da postazioni fissa sia anche da postazioni mobili su carri ferroviari in Olanda o nel nord della Francia per offendere l'Inghilterra. È un trionfo bellico se visto da una parte ed è una tragedia epocale se visto dalla parte opposta, perché i primi V2 vengono lanciati verso l'Europa occidentale nel settembre del 44. Cadono su Londra devastandola e su diverse regioni del Belgio, che vengono letteralmente rase al suolo, perché i V2 si schiantano senza preavviso nel silenzio, perché arrivano a 2000 km orari, quindi sono più veloci del rumore che producono una volta lanciati. È impossibile fermarli, e benché di tutti quelli lanciati nel corso del conflitto ne arrivino a bersaglio non più di un quarto, sono comunque bombe micidiali, portatrici di morte, terrorizzanti solo a nominarle. I micidiali V2 non sono armi di distruzione solamente nel luogo dove si schiantano, la loro costruzione gronda altrettanto sangue. La produzione avviene infatti in grandi fabbriche sotterranee come la tristemente nota Dora Mittelbau, campo di concentramento costruito nei pressi di Nordhausen in Turingia. Gli operai sono prigionieri ridotti in schiavitù che lavorano nei tunnel scavati nella dura roccia della montagna di Harz per nascondersi da eventuali ricognizioni alleate. La fabbrica è diretta dall'SS, il lavoro è massacrante, si stima che muoiano circa 20.000 prigionieri tra il 44 e il 45, altro che incidenti sul lavoro. Ma Werner von Braun e i suoi tecnici continuano a lavorare a Peenemünde nonostante la fabbrica venga pesantemente bombardata dalla RAF nell'agosto del 43. Loro si occupano della ricerca e dei lanci sperimentali. sono scienziati e vedono nei voodoo qualcosa che ha poco a che fare con le armi. Perfino lo stesso comandante di Peenemünde, dunque un militare, Walter Dornberger, ha una visione molto più futuristica dei voodoo, come ricorda lo stesso von Braun. Una sera avevamo un party, una piccola celebrazione. Mi ricordo che Dornberger fece un discorso molto emozionante dove non parlò affatto di armi, ma disse: vi rendete conto che qui è nato il primo mezzo spaziale? La convinzione che avevamo noi ingegneri, che stavamo lavorando a qualcosa che andava immensamente al di là della costruzione di armi, aveva contagiato anche i militari. Forse è meglio chiudere gli occhi sulla tragedia, sulle morti che portano questi missili, però dal suo punto di vista Werner von Braun è convinto che i V2 siano gli antesignani dei missili interplanetari e non fa che parlarne apertamente, considerandoli non la mano armata della vendetta nazista, ma il presagio di una pacifica collaborazione mondiale verso le esplorazioni interstellari. Per questo nel marzo del 44 la Gestapo lo arresta per crimini contro lo Stato, ma il suo ruolo nella produzione dei V2 è talmente determinante che Hitler dà ordine di farlo scarcerare. Così arriviamo al gennaio del 45, quando l'Armata Rossa sfonda il fronte tedesco. Werner von Braun è convinto, come quasi tutti, che la guerra sia ormai persa, ma vuole continuare a costruire razzi che vadano nello spazio nel segno della pace mondiale. Per questo decide di consegnarsi alle truppe statunitensi. Riesce a impadronirsi di quasi 1000 camion, a riempirli con documenti e parti di missili. Con lui ci sono 500 persone, tra le quali un centinaio di scienziati. È una fuga pericolosissima la loro, sono braccati dall'SS che hanno l'ordine di ucciderli tutti, ma ce la fanno. Va detto però che il loro destino è molto incerto. In Gran Bretagna i V2 hanno causato quasi 3000 morti e 7000 feriti, in Belgio altrettanti. Per gli alleati Werner von Braun è un criminale di guerra come tutti i suoi collaboratori e quindi sia da una parte che dall'altra c'è chi lo odia. Tra poco scopriremo il seguito di questa incredibile vicenda. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di un genio, ma anche di un personaggio assolutamente controverso, con una doppia, tripla vita veramente interessante. Stiamo parlando di Werner von Braun, un barone prussiano fin da piccolo appassionato di missilistica, laureato in fisica, che diventa il direttore tecnico, cioè il capo dell'industria missilistica tedesca, e quindi che durante la Seconda Guerra Mondiale costruisce i micidiali V2, che sono i missili bomba che seminano terrore in Europa, e poi si consegna con tutti i suoi tecnici alle truppe alleate quando l'Armata Rossa sta sfondando il fronte tedesco. In pratica passa da una parte all'altra, ma con il dichiarato scopo di rendere la sua arte e la sua scienza motivo di beneficio per l'umanità e non motivo di guerra e di orrore. Questa è una storia che ci è stata richiesta da un nostro ascoltatore, Domenico Melia. E allora vediamo di raccontare come un barone prussiano, che a un certo punto è diventato membro delle SS, arriva a essere considerato il capostipite del programma spaziale americano e come riesce a ottenere i più alti riconoscimenti in campo scientifico degli Stati Uniti, come la National Medal of Science, e a essere insignito addirittura di 25 lauree honoris causa da tutte le più prestigiose università statunitensi. Ma eravamo nel gennaio del 45, Werner von Braun e gli scienziati del suo gruppo si consegnano agli alleati. Vengono considerati dei criminali di guerra, anche se i V2 non fanno vincere Hitler, sono comunque responsabili di migliaia di morti e loro sono quelli che li hanno ideati e costruiti quei razzi. Ma il loro valore è altissimo, sono il fulcro delle avveniristiche conquiste scientifiche tedesche e gli americani non se li vogliono lasciare sfuggire. e inoltre non vogliono che finiscano nelle mani dell'Unione Sovietica, che è lì pronta a raccoglierli. Ecco perché proprio per loro e per altri illustri colleghi nel campo della elettronica, della medicina, delle armi chimiche, viene creato il cosiddetto progetto Paperclip, il progetto graffetta. Il professor James Hansen, storico della NASA, racconta così. C'era una precisa richiesta presidenziale. Se avevano un passato come nazisti, non potevano essere ammessi negli Stati Uniti. Beh, questo aveva senso per il presidente Truman, magari ha senso per molte persone, ma se quell'ordine fosse stato eseguito, i migliori, le menti più intelligenti, compreso von Braun, non sarebbero mai entrati. Quindi quello che accadde nel progetto Paperclip fu che si operò una cancellazione di tutti i dati provenienti dalla Germania, un'operazione di cui fu responsabile l'intelligence americana. Beh, questo è il momento chiave della nostra storia, perché con machiavellica genialità gli americani decidono di ripulire von Braun e tutti i suoi amici, tutto il suo gruppo, dal loro passato di appartenenti al partito nazista, anche perché si giudica che la loro appartenenza fosse solo di comodo nel partito nazista per poter continuare le ricerche. Insomma, la versione è meglio qua che altrove. L'intelligence americana modifica il curriculum degli scienziati per permetterne il reclutamento. Le nuove identità vengono allegate ai fascicoli di ciascuno con una graffetta, da cui il nome dell'operazione, Paper Clip. Werner von Braun e altri 126 suoi colleghi vengono trasferiti a Fort Bliss nel Texas, in una grande installazione militare a nord di El Paso. Beh, la nostra prima abitazione in America fu a Fort Bliss in Texas. Eravamo sistemati in baracche provvisorie dell'esercito, dove rimanemmo per 5 anni. Chi vive nell'esercito ha pochi contatti con la popolazione, e io a quel tempo non riuscii ad instaurare un rapporto vero con l'America. D'altra parte, questa era l'unica soluzione praticabile, molto meglio del processo di Norimberga. E le condizioni non sono certo delle migliori, perché sono separati dalle famiglie che sono rimasti in Germania. Gli scienziati vivono per 5 anni in baracche dissestate, senza servizi igienici, sorvegliati costantemente. Von Braun addestra il personale americano, lavora ad alcuni V2 arrivati integri dalla Germania. Nel frattempo medita e prosegue i suoi studi che puntano alla conquista dello spazio. Intanto si sposa con una sua cugina, perché in giro non è che ci potesse andare troppo, e comunque da lei avrà 3 figli. Nel 50 i tedeschi, perché li chiamano così, vengono finalmente trasferiti a Huntsville in Alabama, dove rimangono per ben 20 anni, dove finalmente riescono ad avere una casa vera e a integrarsi con la popolazione. Werner von Braun viene nominato direttore della divisione di sviluppo dell'Army Ballistic Missile Agency e dà il via alla produzione del razzo Redstone, primo missile balistico americano. Soprattutto realizza un propulsore in grado di lanciare un satellite in orbita nello spazio, e sperando di attirare l'attenzione del pubblico internazionale sul tema dei viaggi spaziali, contatta Walt Disney, realizza come direttore tecnico con i Disney Studios 3 film dedicati all'esplorazione dello spazio. Gli ingegneri che si occupano di voli spaziali hanno 2 problemi. Il primo è costruire una navicella spaziale. Il secondo è addestrare l'equipaggio a sopravvivere nello spazio e a sopportare condizioni di superlavoro. Per mostrarvi cosa è stato fatto per risolvere questi problemi, abbiamo con noi il massimo conoscitore di viaggi nello spazio, il dottor Werner von Braun. L'attrezzatura necessaria per poter sopravvivere nei futuri viaggi nello spazio è molto simile a quella pressurizzata usata per i voli a grandi altitudini. L'esperimento che facciamo oggi ci serve per risolvere problemi complessi che potrebbero verificarsi. Guardate ad esempio questa tuta pressurizzata. È stata disegnata per grandissime altitudini ed è molto simile a quella che useremo per andare sulla Luna. Per darvi un'idea di come gli ingegneri e i medici lavorano a stretto contatto, ecco alcuni risultati degli esperimenti condotti. Questa tuta è stata testata in una camera pressurizzata, togliendo all'improvviso la pressurizzazione. Come vedete, quest'acqua va subito in ebollizione. E lo stesso succederebbe al nostro sangue senza la protezione della tuta. Blood would be the same without the protection of the suit. So take what you want, but just what you need. For survival. Nel 1954 Wernher von Braun sarebbe pronto a lanciare un satellite in orbita e a tentare l'esplorazione spaziale, però il governo americano blocca i suoi esperimenti in favore del progetto Vanguard della Marina Militare. Bene, come una doccia fredda, il 4 ottobre del 57 l'Unione Sovietica stupisce il mondo, batte gli americani sul tempo e lancia in orbita il suo Sputnik. Per gli americani è una sconfitta clamorosa, il primo satellite artificiale in orbita attorno alla Terra nella storia non ha la bandiera a stelle e strisce, ma viene lanciato dal cosmodromo di Baikonur grazie all'equipe dell'ingegnere sovietico Sergei Karaliov. In piena guerra fredda, lo sviluppo scientifico bellico è il metro di misura della forza di una nazione e qui i russi segnano un bel 1-0. E come se non bastasse, pochi mesi dopo lanciano in orbita il primo essere vivente, la mitica cagnetta Laika. L'opinione pubblica americana è sgomenta e attonita. Intanto le ricerche già annunciate alla stampa del lancio dei Vanguard vengono portate avanti, vengono condotte fino al lancio, ma i primi lanci dei Vanguard sono coronati da pieno insuccesso, cioè non riescono a staccarsi da terra. È solo a questo punto che finalmente von Braun e l'artiglieria e non chi ufficialmente si doveva occupare di ricerca spaziale ha l'ok definitivo per poter studiare un razzo vettore che riesca a portare il primo satellite artificiale intorno alla Terra. Eh sì, l'1-2, prima lo Sputnik e poi la cagnetta Laika, mette in allarme gli americani. Bisogna reagire. E allora Wernher von Braun ha finalmente il via libera. In soli 3 mesi mette in orbita il primo satellite artificiale statunitense. E il suo gruppo sviluppa lo Jupiter-C, un lanciatore Redstone modificato che porta in orbita l'Explorer 1 e segna l'inizio del programma spaziale americano. È il 31 gennaio 1958. Von Braun è sulla bocca di tutti. L'ex nemico con un passato nell'SS sta per diventare un eroe nazionale americano. Quando la corsa alla conquista dello spazio si fa ancora più serrata e senza esclusione di colpi, gli Stati Uniti si mobilitano. Il presidente Eisenhower forma la NASA, National Aeronautic and Space Administration, agenzia governativa responsabile del programma spaziale americano, che apre un nuovo centro spaziale, il Marshall Space Flight Center, sempre Huntsville in Alabama, nel quale Wernher von Braun diventa il primo direttore. Siamo nel 1960, il suo sogno si avvera, può smettere finalmente di costruire armi e dedicarsi alla pacifica esplorazione del cosmo. Ma il 12 aprile del 1961 i russi infliggono agli americani un altro duro colpo, forse quello mediaticamente più rilevante. Il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin a bordo della Vostok 1 è il primo essere umano a viaggiare nello spazio. Beh, a questo punto il nuovo presidente americano, che intanto è John Fitzgerald Kennedy, in un discorso alla nazione e al mondo intero fa una dichiarazione dalle tinte forti. Questo paese deve impegnarsi a realizzare l'obiettivo prima che finisca questo decennio di far atterrare un uomo sulla Luna e di farlo tornare sano e salvo sulla Terra. Kennedy vuole una rivincita. Il piede che per primo toccherà la superficie lunare deve essere americano, e questo compito è tutto sulle spalle del team guidato da Von Braun, che prende la sfida come un invito a nozze. Finalmente può realizzare il suo sogno. Il 16 luglio 1969 il razzo Saturn V, sviluppato al Marshall dal team di Von Braun, porta l'equipaggio dell'Apollo 11, composto da Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, che intanto gira e li aspetta nell'orbita lunare, li porta sulla Luna. Neil Armstrong è un americano e, come aveva promesso Kennedy, che intanto è stato ammazzato, è il primo uomo della storia a mettere piede sul suolo lunare. Queste sono le sue prime parole. Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l'umanità. Von Braun, un visionario che ha saputo trasformare il suo sogno in realtà, anche un eroe, ma è un eroe che non si sa fermare. Sono già alcuni anni che pensa all'esplorazione di Marte, che a suo avviso potrebbe avvenire già negli anni Ottanta. Penso che il prossimo target per l'umanità, a parte le attività varie nell'orbita terrestre, che sono ovviamente molte, sarà probabilmente Marte. Gli ultimi 2 anni abbiamo avuto moltissime informazioni sul pianeta Marte. È stato mappato attentamente e sono stati scoperti alcuni fenomeni biologici che non ci saremmo mai aspettati. Ma c'è sempre una guerra da fare e soldi da spendere per gli Stati Uniti. Così Von Braun comprende che i suoi piani verranno rinviati a oltranza. Il 26 maggio 1972 rassegna le sue dimissioni. Poi diventa vicepresidente delle industrie Fairchild a Germantown nel Maryland, entra nel consiglio di amministrazione della Daimler-Benz, viene nominato amministratore delegato nella Orbital Transport und Raketen, che è la prima compagnia privata di produzione di veicoli di lancio, e insomma ha una, come dire, una pensione dorata. Ma nel 1977, colpito da un terribile tumore al pancreas, muore a Alexandria in Virginia a 65 anni. Stephen Waring, autore del libro Power to Explore, pone l'accento sull'incredibile figura di Wernher von Braun. Wernher von Braun era un tecnico incredibile. Praticamente in qualsiasi campo in cui può essere richiesto a un manager e a un tecnico di essere forte, lui era forte. Parlava ai politici e faceva loro comprendere gli arcani delle tecnologie spaziali. Era in grado di guidare un'installazione come il Marshall Space Center. Riusciva a far convivere tecnici di natura molto diversa, facendoli parlare la stessa lingua. C'erano molti operai semplici, elettricisti che lavoravano al programma, e lui li faceva sentire parte di questo grande progetto. È facile perdere il tracciato della sua professionalità a tutti i livelli, perché la sua personalità era enorme. Star di Disney, scienziato pazzo dei tedeschi, ma in realtà lui era un ingegnere di altissimo livello. Beh, se il colpo d'ala deve fare volare, Von Braun è proprio è l'ideale per i nostri discorsi. Più volare di lui, ha saputo volare in alto, ha saputo fare volare in alto tutto il mondo, e anche la nostra voglia di vedere almeno altre persone che scoprono mondi nuovi. Bene, se volete mandarci i vostri commenti o segnalarci altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure sul nostro sito, sulla pagina Facebook, venite a cercare me, insomma, se volete ci trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Simona Capodanno.